America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. We're still here, we're still fighting. We still believe as this race really showed. Rick Santorum, lo avete ascoltato, ha vinto con il 49% dei voti la Louisiana, stato del sud dominato dalla destra del partito repubblicano, la destra dei cristiani evangelici. Non amano molto Romney al sud, che è un mormone, ha preso solo il 26,7% dei voti. Cambierà questo la dinamica elettorale? Secondo me non la cambierà, lo vedremo già dalle prossime primarie che avverranno martedì 3 aprile. Romney dovrebbe prendere il Wisconsin, resta il favorito su base nazionale. Dunque non vorrei soffermarmi troppo sulla politica e vorrei affrontare invece un paio di argomenti di cronaca in cui gli italiani si sono affermati nei media americani. Yeah, for you to be the only guy at the bar, there's gonna be a reason, right? If it was that easy, then everybody would do it. Sergio Marchionne, intervistato a CBS 60 Minutes, forse il più prestigioso news magazine americano, intervistato da Steve Croft, un veterano del giornalismo televisivo che ha intervistato tra l'altro più volte Barack Obama. Croft chiede a Marchionne se davvero era così difficile rimettere in piedi la Chrysler, e Marchionne, devo dire, non si tira indietro davanti alla possibilità di un complimento. Dice: beh, era davvero molto difficile. Quando sei l'unico rimasto al bar, vuol dire che la situazione è davvero preoccupante. Non c'era nessun altro, ha detto Marchionne, che si è fatto sotto. Il manager italiano ha elogiato i lavoratori americani, li ha ringraziati, secondo lui sono di altissima qualità ed è stato grazie a loro che la Chrysler si è rimessa in piedi. Croft lo ha provocato, gli ha detto se è vero quel che dicono i repubblicani, e cioè che ha fatto quella famosa pubblicità con Clint Eastwood durante il Super Bowl per ripagare Obama del prestito concesso. Beh, devo dire, Marchionne, come al solito, non ha perso un colpo, ha risposto subito: ho ripagato i 6 miliardi di dollari Obama con 6 anni d'anticipo e con interessi superiori al 6%, non credo che fosse dovuto anche un commercial televisivo. Quando poi Croft gli chiede: ma cosa pensa davvero di questa cosa dei repubblicani? Dice: qui siamo in televisione, poi glielo dirò privatamente. Ecco, Marchionne affronta anche la questione dei nuovi modelli, dice che la sfida più difficile davanti a lui è quella di un errore di esecuzione. Se ci dovesse essere un errore di esecuzione, per esempio un modello sbagliato, beh, allora saranno guai. Forse un modello sbagliato potremmo permettercelo. Due no. Fra i nuovi modelli, ha confermato, ci saranno quelli dell'Alfa Romeo. Dall'industria alla scienza, tre italiani, Francesco Rubino della Cornell University, Gertrude Mingrone e Marco Castagneto dell'Università Cattolica Gemelli di Roma, hanno firmato oggi un articolo sul New England Journal of Medicine, forse la più prestigiosa rivista medica americana, un articolo con risultati rivoluzionari per la cura del diabete. Ho con me ai microfoni di America 24 Francesco Rubino, con cui parliamo di questa scoperta. Buongiorno Rubino. Buongiorno. Che risultati avete avuto che pubblicate quest'oggi in questa rivista medica del New England Journal of Medicine? Lo studio dimostra che prendendo dei pazienti che hanno diabete di tipo 2, un'obesità sostanziale, quando si sceglie di avere la chirurgia, i risultati sono migliori, ma di gran lunga, rispetto a quelli che si hanno con la terapia medica standard. Nel nostro gruppo di pazienti chirurgici, almeno il 75% dei pazienti è stato in grado di sospendere completamente la terapia medica. Se faceva insulina, ha sospeso l'insulina; se prendeva i farmaci orali, ha sospeso quei farmaci, e nello stesso tempo aveva una normalizzazione dei valori di zucchero nel sangue. Quel che mi sembra di capire dalla breve conversazione che abbiamo avuto finora col professor Rubino è che qui c'è una possibilità di svolta, cioè una remissione della malattia significa poterla curare. Ecco, stiamo parlando davvero di una svolta di questo genere, professore? Io non amo parlare di cura perché non conosciamo la causa del diabete, però certo è che molti pazienti, forse la maggior parte, che hanno un intervento chirurgico di questo tipo, dopo l'intervento non mostrano più i segni tipici della malattia, per esempio l'iperglicemia, e possono fare meno anche delle medicine. Noi chiamiamo questa situazione remissione di malattia. Quindi una remissione della malattia. Lei anche, credo, abbia per i nostri ascoltatori che magari hanno amici, parenti che hanno il diabete, delle informazioni. Ci dia una metodologia, cosa si deve fare? Facciamo un esempio pratico: un paziente che si alza 1,70 m, che pesi 100 kg e ha il diabete di tipo 2, comincia a essere uno di quei pazienti che deve chiedere al medico se l'intervento chirurgico nel suo caso è indicato, perché potrebbe essere effettivamente il caso che la terapia chirurgica in pazienti di questo genere sia la sola a poter garantire un controllo completo di malattia. Ci deve essere la combinazione di diabete 2 più obesità. Sì, quindi sì, diciamo perché... un diabetico che sia assolutamente normale è più difficile fare questo nuovo vostro intervento. Diciamo che un paziente diabetico che sia completamente normale in termini di peso non è un paziente nel quale oggi dovremmo raccomandare l'intervento come prima scelta. Però abbiamo dei dati che ci dicono che anche alcuni di questi pazienti potrebbero avere gli stessi risultati che abbiamo visto in pazienti più obesi. Quel tipo di applicazione però è ancora nello stato di ricerca clinica, non dovrebbe essere considerata rutinaria. E la terapia chirurgica si traduce in una riduzione dello stomaco? Si tratta per lo più di interventi usati già per la chirurgia dell'obesità massiva, sostanzialmente interventi che riducono in parte la taglia dello stomaco e creano un bypass dell'intestino. Questi sono, se vuole, gli interventi più efficaci sul diabete. Ce ne sono altri che possono avere comunque buona efficacia senza necessariamente ricorrere al bypass intestinale. Una scoperta, devo dire, è piuttosto importante. E domanda, noi nel nostro programma radio abbiamo un segmento che si chiama Solo Andata, di persone come lei che a un certo punto hanno lasciato l'Italia e sono venute in America. Questo studio è stato fatto in collaborazione con l'ospedale Gemelli, con l'Università Cattolica a Roma, dove lei mi sembra abbia lavorato. Domanda, se lei non fosse venuto alla Cornell, avrebbe potuto fare questo esperimento e arrivare a queste conclusioni? Ma direi che il fatto che lo studio è stato fatto a Roma e al Gemelli conferma che si può fare in Italia. E quello che è il problema in Italia è che in un'età un po' giovane, fra virgolette, come amo definirmi ancora, cioè ho 42 anni, è più difficile fare certe cose. C'è un sistema accademico che non promuove l'attività dei giovani ricercatori, per i giovani ricercatori è difficile avere finanziamenti, è difficile avere accesso a tutto quello che serve per fare la buona ricerca. Quando è arrivato in America per la prima volta? Io sono arrivato in America nel 1999 per la prima volta per un periodo di training, poi sono stato in Francia per 7 anni, sono ritornato brevemente in Italia al Policlinico Gemelli dove ho avuto la fortuna di avere un posto da ricercatore che in qualche modo continua, per cui questo rapporto non si è mai fondamentalmente interrotto, e anche se sono venuto negli Stati Uniti nel 2007 continuo a lavorare con il Policlinico Gemelli, quindi ho l'opportunità ancora di lavorare con colleghi italiani, di tornare a casa di tanto in tanto. Ci dica qualcosa di più dell'atmosfera della ricerca scientifica e che consigli può dare a chi si occupa nel nostro governo di cambiare qualche cosa nel settore della ricerca sanitaria? Fare una grossa iniezione di competitività, quello che forse ingessa un po' i centri accademici italiani è la mancanza di competitività, e quindi tutto sommato non è così importante fare della buona ricerca o avere anche dei giovani entusiasti e capaci e volenterosi che fanno carriera, perché in fondo comunque non si compete quasi con nessuno. Ci sono dei mezzi a disposizione che in Italia non ci sono? C'erano prima anche molti più mezzi a disposizione, la crisi economica si sente anche da questo punto di vista. Io più che dei mezzi parlerei delle opportunità, ecco, su quello persiste la differenza con l'Italia, e soprattutto in giovane età. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, dagli esperimenti scientifici sul diabete agli esperimenti musicali. Il mese prossimo Nicolas Jaar lancia la prima compilation in forma di prisma. Che cos'è? Beh, è un disco non in formato di CD, ma a forma di prisma, anzi a formula di scatola quadrata, per cui voi potete direttamente attaccare le cuffie e sentire in questo disco, sentire direttamente la musica, non c'è bisogno di avere un lettore musicale. E dunque, in onore dell'innovazione di Nicolas Jaar, I Got a Woman. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.